TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La guerra e i viaggiatori bloccati per la chiusura degli spazi aerei nell'area del Golfo. Da Udine un'agenzia segue il difficoltoso rientro di una trentina di persone. I possibili scenari del conflitto e le ripercussioni per l'economia: su del 10% il prezzo del petrolio, il monitoraggio dei traffici, la SIOT di Trieste. Fatture false per quasi 5 milioni e mezzo di euro e 120 lavoratori irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza nel settore della logistica in un'operazione coordinata dalla Procura di Trieste. Due arresti, 14 gli indagati. Nelle sale Orcolat, il docufilm sul terremoto del 1976, la sua eredità, la voce narrante, quella di Bruno Pizzul, parla il regista. Pordenone, capitale del design, al via la 15ª edizione del festival che coinvolge l'università, le aziende e l'intera città. Lo sport, come è cresciuta la pallavolo, intervista con Carmelo Pittera, l'uomo che ha dato il via al boom azzurro. Calcio stasera Udinese-Fiorentina. Sono le 12:31 minuti. Buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Gli attacchi degli Stati Uniti e Israele all'Iran hanno incendiato una vasta area. Questa mattina missili da Israele sul sud del Libano, rappresaglie di Teheran su obiettivi militari statunitensi, esplosioni all'aeroporto iracheno di Erbil e attacchi agli aeroporti di Doha, Abu Dhabi e Dubai. Scali che sono stati chiusi e che al momento impediscono il rientro di migliaia di viaggiatori occidentali da diversi paesi dell'Africa e del sud-est asiatico, tra loro anche una trentina di persone che si sono affidate a un'agenzia di viaggi la cui sede principale è a Udine. Ascoltiamo. Deborah Reinis, amministratrice delegata di Travel Angels, un'agenzia viaggi che opera in tutta Italia con oltre 130 consulenti. Che tipo di esperienza state vivendo in questo momento? Beh, purtroppo è brutto dirlo, ma è la stessa identica esperienza del giorno dopo il Covid. Quindi ci troviamo in una situazione di grandissima incertezza, non capiamo come si svolgeranno le cose perché nessuno ha delle risposte chiare in questo momento. Abbiamo passeggeri bloccati in tutto il sud-est asiatico e in Africa, perché chiaramente la direttrice principale è quella via Doha e via Dubai, quindi i rientri sono in questo momento molto complessi. Anche le riprotezioni sono molto complesse e chiaramente il problema più grande una volta fatti rientrare i passeggeri sono le partenze imminenti, perché comunque per noi questo è un mercato che copre un 30% del nostro fatturato annuo. L'unica via possibile è quella attraverso la Turchia in questo momento? In questo momento Istanbul o Addis Abeba, quindi l'Africa riusciamo a far rientrare via Addis Abeba qualche passeggero, però anche lì la situazione è abbastanza complicata perché i voli non sono moltissimi e Istanbul è la direttrice principale, ma chiaramente con la richiesta che c'è in questo momento è molto complesso. Come agenzia viaggi vi dovete occupare anche non solo delle questioni logistiche ma anche economiche delle persone bloccate, sicuramente questa è una materia di grande preoccupazione per voi. Sì, purtroppo o per fortuna per il cliente, quando un cliente si rivolge a un'agenzia viaggi, tutto l'onere della riprotezione, quindi di quell'attività di mantenimento del cliente sul posto, quindi albergo, cibo, trasferimenti, e anche l'onere del biglietto aereo nuovo da acquistare con per esempio Turkish per una nuova per un nuovo biglietto, per un nuovo ingresso, ritorno in Italia, è a carico dell'agenzia. Quindi c'è un tema di costi per far rientrare i clienti che sono interamente a nostro carico, e anche un tema di cancellazioni, che chiaramente nel momento in cui il cliente cancella va rimborsato, noi abbiamo degli impegni con i fornitori a destinazione che spesso non ci rimborsano a loro volta, quindi a livello impresa chiaramente per noi in questo momento il danno economico è veramente molto molto molto importante. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Del possibile allargamento del conflitto, delle sue conseguenze sul piano internazionale, dell'impatto sulla sicurezza e l'economia in Europa, si è parlato questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Regione con Arduino Panicci, esperto di strategia militare e geopolitica. Lo schema che sta seguendo il presidente americano è uno schema, chiamiamolo alla venezuelana, ma l'Iran è un paese molto più complesso. È un paese che ha avuto un ruolo determinante centrale in Medio Oriente, aveva un asse sciita nel quale vi erano alleati che andavano da Hezbollah nel Mediterraneo, Hamas, fino agli Houthi nel Mar Rosso, ha una rete anche terroristica impressionante, e quindi dovremo vedere se questi piani americani sono in realtà dei piani concreti oppure se, come è accaduto in molte altre occasioni, diciamo, degli attacchi americani, si va invece verso una guerra più lunga di logoramento, se non a dei disastri come quelli dell'Iraq o dell'Afghanistan. Speriamo di no. E che cosa rischia l'Europa e cosa rischiamo noi sia sul piano economico che sulla sicurezza? I flessi economici all'inizio saranno naturalmente quelli probabilmente dell'aumento del prezzo del petrolio e tutto quello che ne consegue, perché tutto il traffico avviene su petrolio e gas, e per l'Europa anche questo potrebbe riverberarsi. Dei rischi immediati, a mio parere, in questo momento non vi sono. E il livello di allerta intorno ai cosiddetti obiettivi sensibili ovviamente si è alzato. Quanto è concreto il rischio in Europa, il rischio terroristico? È inevitabile che si alzi il livello di guardia della NATO. Naturalmente questo riguarda anche noi europei, riguarda le nostre basi che sono già tutte allertate e già in allarme. Naturalmente è difficile in questo momento pensare a un'Europa colpita, però se la guerra dovesse prolungarsi e se le cose dovessero prendere la piega non ottimistica dichiarata da Trump, naturalmente vi sarebbero anche dei problemi di terrorismo, dei problemi di sicurezza. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Come ipotizzato da Arduino Paniccia, subito su il prezzo del petrolio, che questa mattina ha visto aumenti che hanno sfiorato il 15% per assestarsi poi intorno al 10%. A Trieste ogni mese arrivano dall'Iraq 4 petroliere cariche di greggio. In questo momento una nave ferma in rada, era partita prima dell'inizio della crisi, ma il petrolio iracheno, ci spiegano alla SIOT di Trieste, rappresenta solo il 12% di quello movimentato. È un mercato che sa adattarsi molto velocemente ai cambiamenti, spiega il presidente della SIOT Gorla, che ha vissuto per 15 anni in Arabia Saudita, e dice: ora siamo a un punto di non ritorno. In questo momento, nel mezzo del Golfo di Trieste, c'è una petroliera con 1 milione di barili di petrolio provenienti dall'Iraq, partita il 10 di febbraio, ben prima dunque della crisi scoppiata sabato mattina in Medio Oriente. In questo caso il petrolio destinato alla Germania meridionale non avrà alcuna conseguenza, arriverà, ben diverso sarà per le future navi. Noi siamo alla sede della SIOT a Sant'Orligo della Valle con il presidente Alessandro Gorla, che fino alla scorsa estate viveva tra Emirati Arabi e Arabia Saudita, ha vissuto lì per ben 15 anni, conosce bene la zona. Allora, presidente, che ripercussioni può avere il porto di Trieste con la chiusura dello stretto di Hormuz? Poco fa ci ha fatto vedere nell'applicazione le navi tutte ferme, lo stretto di fatto vuoto, come mai successo prima. Per questo territorio, il nostro territorio, che conseguenze ci possono essere? Per la parte petrolifera, SIOT riceve circa il 12% dei volumi dall'area, suddivisi più o meno equamente tra Iraq e Arabia Saudita. Tradotto in numero di navi significa circa poco più di 4 navi al mese. È evidente che è molto presto per giudicare quali impatti ci saranno a seguire. Non ritengo personalmente che lo stretto di Hormuz possa restare chiuso a lungo, perché ci sono paesi che dipendono, l'India, la Cina, ma anche altri come il Giappone, il Pakistan. C'è una quantità di paesi che dipendono da quello stretto tale da mettere una pressione sull'area assolutamente molto molto forte. Il sistema è flessibile da questo punto di vista, si adatterà, quindi i nostri shipper sicuramente faranno delle nomination di greggi diversi per il periodo durante il quale questo problema continuasse a persistere. Sant'Orligo della Valle, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Attraverso l'operazione Dirty Delivery della Guardia di Finanza di Trieste e di Portogruaro, coordinate dalla Procura Giuliana, sono emersi 120 lavoratori irregolari. Gli illeciti compiuti nel settore della logistica hanno riguardato anche l'emissione di fatture false per circa 5 milioni e 400 mila euro e sono stati messi a segno da aziende fittizie che non versavano tasse. Attraverso false appalti di servizio, le imprese coinvolte dissimulavano la fornitura illecita di personale, generando indebiti crediti IVA e omettendo versamenti fiscali e contributivi. Sono 14 le persone indagate dalla Procura di Trieste, di cui 5 accusate di associazione per delinquere. Già emesso un mandato di custodia cautelare in carcere e un mandato per arresti domiciliari a fronte di un sequestro di 750.000 euro. Eseguite perquisizioni in 20 sedi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Puglia. Ancora cronaca, guidava un'automobile risultata rubata e senza aver mai conseguito la patente. Nei guai un giovane intercettato dai carabinieri nella notte a Udine, nella zona nord. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a bloccare la vettura e in breve anche il giovane che aveva tentato la fuga a piedi. La macchina era stata rubata la notte precedente a San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia. Un nuovo modello organizzativo basato sull'accorpamento dei comuni in comprensori territoriali omogenei è stato adottato dall'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER Udine con l'obiettivo di semplificare la gestione delle graduatorie e accelerare i tempi di assegnazione degli alloggi. In questo quadro si colloca la graduatoria provvisoria pubblicata oggi relativa al bando del 20 ottobre scorso per i comuni di Amaro, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Gemona, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone, Verzegnis. Le domande pervenute sono state 277, di cui 199 ammissibili a seguito dell'istruttoria amministrativa. Le graduatorie provvisorie resteranno pubblicate per 30 giorni e i partecipanti potranno presentare eventuali osservazioni entro il 10 aprile. L'approvazione della graduatoria definitiva è prevista entro la primavera. Successivamente a ATER Udine procederà alle assegnazioni degli alloggi disponibili in base all'ordine di graduatoria, alle caratteristiche degli immobili e alla composizione dei nuclei familiari. Cantina Rauscedo ha nominato il nuovo direttore generale. Si tratta di Flavio Geretto, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale presso Villa Sandi, azienda trevigiana tra le maggiori realtà nell'ambito del Prosecco. La scelta apre una nuova fase per la cooperativa friulana, punta a rafforzare i processi gestionali, valorizzare il ruolo degli oltre 300 soci e definire con maggiore chiarezza le linee di sviluppo per il territorio. Fondata nel 1951, la realtà con sede a San Giorgio della Richinvelda opera su circa 2.000 ettari vitati, compresi tra i fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina. Il presidente è Antonio Zuliani. Sono le 12.42, passiamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste, Udine e Gorizia 10,5 gradi, a Pordenone 11, in area montana Tolmezzo 8 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 6,5 gradi, Sappada 4 gradi, in quota sul Monte Lussari 2, sul Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa Lignano e Grado 11 gradi. Secondo l'ARPA nel pomeriggio avremo cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con foschie. Dalla costa alle prealpi sarà possibile qualche debole pioggia sparsa o qualche breve e debole nevicata oltre i 1.000-1.400 metri circa. Domani avremo cielo in prevalenza nuvoloso con foschie, maggiore nuvolosità al mattino e schiarite in giornata. Tempo migliore sulle Alpi, in serata possibili nebbie. Il regista di origini friulane Federico Savonitto presenterà il suo documentario Orcolat, dedicato al terremoto che colpì il Friuli nel 1976, questa sera, dapprima a Trieste al Cinema Ariston alle 19, poi a Udine al Visionario alle 21. Voce narrante, quella di Bruno Pizzul, per raccontare un racconto corale che intreccia memoria, identità e resilienza del Friuli. Sullo schermo immagini di repertorio, di cui molte dalla Cineteca del Friuli, e l'esplorazione del l'atto sia scientifico sia leggendario del sisma. Ne abbiamo parlato con Savonitto. Quello che colpisce del film è che il racconto si snoda tra la fiaba e la scienza, il mito dell'Orcolat e la storia, la leggenda, i servizi del telegiornale. È tutto un alternarsi tra questi due registri. Come mai questa scelta? Pur con tutto il rispetto e diciamo l'amore che ho per la scienza, che infatti nel film è molto rappresentata da una linea narrativa importante, che è quella che poi segue i ricercatori del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, ma insomma è rappresentata anche da discorsi che fanno alcune persone intervistate, come per esempio Paolo Rumiz, che parla, no, dello spostamento delle placche che provocano effettivamente questo movimento che poi genera genera le montagne, ma soprattutto genera nel presente di chi vive quel momento i sismi che possono distruggere intere città. Al di là appunto del discorso scientifico, mi interessava però provare a indagare quell'ambito che rimane senza risposte, perché ciò che è veramente interessante di un sisma, secondo me, è proprio il fatto che lascia l'umanità incapace di dare una spiegazione logica, perché è vero che c'è la spiegazione scientifica, ma si rimane davanti in alcuni casi purtroppo alla tragedia, al lutto, per una cosa che nasce, ok, da un'origine spiegabile scientificamente, ma rimane sempre qualcosa che ci riporta, diciamo, all'essere al mondo come lo erano i nostri antenati greci, che dovevano inventarsi delle divinità per spiegarsi il perché di alcune calamità, no? E quindi, insomma, questo Orcolat mi interessava molto, così come anche la Riba Faronica, che è un'altra figura mitologica che si affronta nel film, mi interessava per riuscire a indagare quell'ambito, che è quello dell'inspiegabile, che è quello che rimane insoluto anche dopo secoli di scienza, insomma. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Laboratori, lezioni e incontri in calendario a Pordenone per la Design Week inaugurata questa mattina. Si tratta della 15ª edizione per la manifestazione che il prossimo anno si terrà nella capitale italiana della cultura. Una settimana di workshop aziendali, lezioni in vetrina, incontri e mostre. Ha preso il via stamani la 15ª Pordenone Design Week con la Lectio Magistralis dell'architetta Luisa Collina, vicepresidente della Fondazione Politecnico di Milano. Tra i temi al centro di questa edizione l'impatto dell'intelligenza artificiale sul ruolo del progettista. La docente di design e vicepresidente della Fondazione Politecnico, Luisa Collina. Il messaggio è quello di mantenere l'innamoramento per il design italiano, perché è un'eredità straordinaria, molto di grande ricchezza, ma anche di riuscire a guardare oltre verso le nuove sfide, quelle del design digitale, design dei servizi, design del sistema prodotto servizio, così lo chiamiamo, per arricchire proprio l'esperienza delle persone e rendere la nostra interazione con gli oggetti sempre più facile e piacevole. Fino al 6 marzo le aule del consorzio universitario si trasformano in laboratori di idee, dove studenti e studentesse lavorano fianco a fianco con le aziende, quest'anno anche con una delegazione internazionale da 5 università europee. Ma l'iniziativa guarda oltre la settimana, con l'ambizione di fare di Pordenone città del design. Giuseppe Marinelli è direttore scientifico della Design Week. Vogliamo superare qualcosa che è nato come molto positivo, week, settimana, e farlo diventare qualcosa esteso a tutto l'anno. Quindi, siccome abbiamo costruito attorno all'asse centrale i workshop con le aziende, abbiamo costruito attorno una costellazione di eventi, conferenze, convegni, panel, laboratori sperimentali, mostre, che creano un humus culturale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il calcio. Udinese stasera in campo allo Stadio Friuli contro la Fiorentina nella partita che chiuderà il programma della 27ª giornata. In classifica i bianconeri occupano il 12° posto con 32 punti, i viola hanno 8 punti in meno e sono terzultimi con Cremonese e Lecce. La stagione è ancora lunga e se obiettivi di classifica sembrano non esserci, specie dopo i 3 stop consecutivi, mister Rugnajic non si accontenta. Stasera alle 20.45 contro la Fiorentina al Friuli c'è da riscattare un momento no e la pesantissima sconfitta dell'andata. Di fronte però una squadra affamata di punti salvezza, tecnicamente più forte nonostante un'annata disastrosa. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, tipo quando passiamo in vantaggio e non riusciamo a mantenere alto il livello di energia per portare a casa il risultato. Dobbiamo fornire belle prestazioni e migliorare, ha detto l'allenatore tedesco. Dobbiamo saperci cercare la fortuna, ha concluso. Davis torna a disposizione dopo lo stop di un mese, ma non sarà titolare, anche se è stato provato in allenamento. Davanti al posto dell'inglese, accanto a Zaniolo, ex di turno, ci dovrebbe essere ancora Buxa. Per il resto formazione tipo, a parte l'infortunato Solé, Christensen, Bertola, Cabasele davanti ad Okoye, Attà accanto a Karlström ed Ekelenkamp nel trio di centrocampo. Sul francese, reduce da un infortunio, Rugnai ci ha parlato di troppe aspettative. È la prima stagione completa da titolare, sta imparando tanto a livello tattico, ha detto. Serve però costanza e capacità di migliorare anche in termini di pericolosità offensiva. Lo dobbiamo aiutare a segnare di più e a essere più decisivo. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Volley, l'ultimo turno di A2 conferma l'ottimo stato di forma delle squadre regionali. Nel torneo maschile Prata sempre più sola in testa dopo il successo per 3-2 su Pineto, seconda in classifica. Ora sono 7 i punti di vantaggio sugli abruzzesi. Il prossimo match dei pordenonesi si giocherà sul campo del Portoviro, penultimo. Nel campionato femminile CDA Talmassons sempre all'inseguimento della capolista Brescia, ma ora c'è un solo punto a separare le due formazioni. Nel 3-1 delle friulane sul campo del Messina solo qualche sbavatura nel terzo parziale. La CDA tornerà in campo mercoledì sera alla Tisana contro il Melendugno, penultimo, come l'Itas, che farà invece visita a Brescia. Ieri il Pala Trieste ha ospitato la finale della Supercoppa di pallavolo maschile. Tra le migliaia di spettatori c'era anche Carmelo Pittera, commissario tecnico della Nazionale nel 1978, quando l'Italia raggiunse il primo grande risultato della sua storia, il secondo posto in un campionato del mondo. Pittera, siciliano, da molti anni vive a Mossa. Da chi segue la storia del movimento pallavolistico è considerato il fondatore della pallavolo moderna in Italia, colui che pose le basi per i successi internazionali ottenuti a partire dagli anni 90. Gli abbiamo chiesto un giudizio sulla pallavolo attuale. Siamo al massimo, soprattutto in Italia, con le squadre nazionali, con l'organizzazione ultima della federazione. Penso che stiamo andando ancora più in alto, anche non solo dal punto di vista delle medaglie, ma soprattutto della crescita della pallavolo. I fondamentali però restano importanti, anche se c'è molta fisicità. Dobbiamo recuperare qualche cosa. Ora che sono cambiate le regole, è necessario dedicarsi ai giovani nell'insegnamento della tecnica specifica della gestualità della pallavolo. E cosa c'era da imparare rispetto alla pallavolo dei suoi tempi ora? Guardi, la pallavolo di questi tempi qua ha una maggiore aggressività positiva, nel senso che il termine dell'aggressivo va visto come una sorta di crescita individuale dei giocatori notevoli, visto che non c'è più il cambio palla, per cui l'errore è diventato fondamentale. Per il resto è una pallavolo molto fisica, molto più veloce, per cui dobbiamo attenerci a questi che sono cambiamenti moderni. L'intervista era di Paolo Roncoletta. Comincia da Trieste l'operazione Round 2 per la nazionale Under 17 femminile di calcio. Dopo il doppio test di Tirrenia contro la Svizzera, le azzurrine si raduneranno venerdì a Trieste per preparare la seconda e decisiva fase di qualificazione all'europeo, in programma in Croazia dal 13 al 19 marzo. In palio un posto nella fase finale che si giocherà dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord. Il tecnico Jacopo Leandri ha convocato 24 calciatrici per il raduno triestino di preparazione. Nella giornata di martedì 10 sarà poi ufficializzata la lista delle 20 ragazze che parteciperanno al girone, che comprende anche le padrone di casa della Croazia, prime avversarie venerdì 13 marzo a mezzogiorno, e l'Inghilterra e la Turchia. Sono una quarantina i tedofori che questo pomeriggio accompagneranno a Trieste la fiaccola delle Paralimpiadi Milano Cortina, con appuntamento d'inizio in Piazza Unità alle 17. Il primo tedoforo sarà il maratoneta Mattia Prandini, che partirà alle 18.45 da Piazza Venezia. Il percorso della Torcia proseguirà poi per via Torino e Piazza Ortis e Cavana per arrivare in Piazza Unità alle 19.15. Ultima tedoforo la spadista udinese Giulia Rizzi, campionessa olimpica a Parigi. Partita dal Regno Unito lo scorso 24 febbraio, la fiamma paralimpica in Italia ha avviato il suo viaggio nei giorni scorsi a Torino per un percorso in 13 tappe lungo 2000 chilometri. I giochi paralimpici sono in calendario da venerdì 6 marzo fino a domenica 15. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Caterina Cabrelli e a Bruno Montevecchi, e grazie a Valentina Veneruso che ha collaborato in redazione. Sono le 12.54, la prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito ancora, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.